Quando la politica non fa politica e spende per la guerra e fa la simpatica, sorda come un mulo, la faccia contro un muro e non difende gli interessi e ci prende per il culo. Anche Garibaldi vi avrebbe combattuto e Martin Luther King vi avrebbe umiliato. Mandela in prigione l'avreste mandato e Che Guevara non vi ha di certo ispirato. Il mondo cade a pezzi sotto ai vostri occhi e voi restate sordi nei vostri palazzi. Sono un antipolitico della dignità, il discepolo. La politica è solo servizio, la vostra è solo un vizio. Sono anni ed anni ed anni che siete lì a scaldare le poltrone tanto ambite per le vostre schiene. Quando i partiti non servono il popolo, è chiaro che il popolo sbuffi e non voglia più leccare i vostri baffi. Quando non sento voce che rappresenti il mio stato, ridotto all'osso da uomini senza decoro, senza fiato. Avete bruciato giustizia sul tavolo dei compromessi e adesso pagate il conto e raccogliete i vostri frutti. Il mondo cade a pezzi sotto ai vostri occhi e voi restate sordi nei vostri palazzi. Sono un antipolitico della dignità, il discepolo. La politica è solo servizio, la vostra è solo un vizio. Vi siete arricchiti e a noi lasciate debiti. Sono stufo dei vostri non detti, dei vostri non fatti, dei vostri occhi. Sino a quando non cambierete rotta, non salirò sulla vostra barca e mai avrete il mio consenso, mai vedrete la mia faccia. Dite di voler lottare contro le mafie e il qualunquismo, allora cominciate voi a non fare vittimismo. Siete tutti legati a un potere, siete schiavi e la vostra sinistra è troppo piena di lupi. Il mondo cade a pezzi sotto i vostri occhi e voi restate sordi nei vostri palazzi. Sono un antipolitico della dignità, il discepolo. La politica è solo un servizio, la vostra è solo un vizio. Il vostro parlarvi addosso è lontano da ogni sogno, dalla giustizia, dalla speranza, da chi vuole cambiare il mondo. A forza di proteggere la casta siete della stessa pasta, mezza cartuccia di una pistola che spara solo acqua. Per salvare questo paese abbracciate rospi e iene e poi vi candidate come candide balene, come squali che di rosso hanno solo il sangue. Non sapete quanta rabbia animi la gente. Il mondo cade a pezzi sotto i vostri occhi e voi restate sordi nei vostri palazzi. Sono un antipolitico della dignità, il discepolo. La politica è solo servizio, la vostra è solo un vizio. Dove dovreste essere non ci andate mai, mai una parola che dia un senso a chi sta nei guai. Eppure dovreste voi difendere i più deboli, dargli forza, dignità, dagli un minimo di viveri. Il mondo cade a pezzi sotto i vostri occhi e voi restate sordi nei vostri palazzi. Sono un antipolitico della dignità, il discepolo. La politica è solo servizio, la vostra è solo un vizio.